140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. La Feltrinelli, Milano. Esce con un nuovo disco di piano solo, Giovanni Allevi. L'ha intitolato semplicemente Love. E ho pensato che tutto sommato Love fosse la parola e quindi l'argomento più significativo per me in assoluto in questo momento. E che probabilmente potesse avere anche un riscontro collettivo. Forse quello che ci vuole e quello che manca. Se si pensa ai tempi di oggi, le ispirazioni sono tante, tutte diverse. Proprio così. Tutto sommato, stavo riflettendo sul fatto che l'unica persona che parla d'amore oggi, l'unico potente della Terra, grande, è Papa Francesco. Non riesco a sentire discorsi che affrontino lo stesso argomento da altri. Allora umilmente mi sono voluto fare strumento del suo pensiero e amplificarlo e ribadirlo attraverso la musica. Il mio è un messaggio sicuramente positivo, però non voglio raccontare soltanto l'amore sentimentale, ma voglio raccontare questa meravigliosa realtà in tutti i suoi variegati aspetti. I tuoi album hanno delle tracce, ogni traccia è una storia, senza parole, ma una storia, anche questa volta è così. Sicuramente è così. E poi mi piace anche pensare che possa diventare la storia la colonna sonora delle persone che la vivono, delle persone che l'ascoltano. Il vero protagonista della mia musica è sempre l'ascoltatore. Per quello io me l'abbraccio, gli voglio tanto bene, l'ascoltatore. Tu sei sempre stato accompagnato dall'amore per tua moglie, che ti ha sempre seguito come un'ombra, da una famiglia. Infatti uno dei due singoli è My Family, racconti della tua di famiglia. Sì, ma quella famiglia che ha ispirato My Family era molto, molto chiassosa e confusionaria. E beh, bimbi poi. Sì, c'era una riunione di famiglia anche con gli altri parenti, un po' più allargata, una grande confusione. Io non amo particolarmente la confusione. Allora è come se in quel momento però il volume di tutto quel vociare si fosse abbassato e si fosse alzato nella mia mente quello di una musica dolce, solare. Ed ecco quindi compreso per me il vero significato della musica, ossia la capacità di vedere la realtà con occhi differenti, con gli occhi incantati di un bambino. Grazie alla musica tolgo il velo dell'abitudine e riscopro l'eccezionalità di essere lì, in quel momento, in mezzo a quei parenti confusionari ai quali comunque voglio tanto bene. E quindi c'è l'aspetto dell'ispirazione, della famosa strega capricciosa, però anche la fatica, la dedizione, anche questo hai ricordato a chi ti ama, chi ti segue, l'impegno, lo studio. Questo è un momento particolare, storico, in cui dobbiamo dedicarci all'eccellenza. Dare tutto noi stessi, concentrati, cercare di fare le cose nel migliore dei modi, circondarci, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, di persone bravissime, di grande talento. Così è stato per l'album Love. Sono stato affiancato da una fucina di giovani dal talento straripante e spero che insomma tutte queste energie positive si siano trasformate, siano confluite in questa musica. E Anche perché tu sei sempre stato l'enfant prodige, però dopo 9 album possiamo dire che adesso, non che tu sia invecchiato perché sei identico, però devi cominciare anche a scoprire qualche giovane che ti affianchi. Sì, sicuramente, l'enfant, boh, effettivamente, però mi sento comunque orgogliosamente e sinceramente immaturo all'interno nel mio modo di essere. Hai parlato di eccellenza, eccellenza spesso è un sostantivo che si associa al concetto di Italia, al concetto di esportazione. Il tuo tour parte dall'estero questa volta? Sì, parte da Londra, inizia come un tour europeo, poi si sviluppa in Italia e continua in Giappone. L'eccellenza è un elemento fondamentale. Noi italiani siamo degli alchimisti, separiamo il brutto dal bello, il pesante dal leggero e creiamo dei distillati che fanno innamorare il mondo di noi. Ecco, noi abbiamo questa capacità, far innamorare il mondo di noi. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Giovanni Allevi. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.